get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Forse se chiudiamo la finestra è meglio perché si sentono i rumori di sottofondo. Allora, bentornate, buonasera a tutte, siete all'ascolto della nostra 238esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Quella che state per ascoltare è la trasmissione che riapre le danze, come si dice a Roma, sì, perché le vacanze sono purtroppo definitivamente finite, almeno per noi del CLR. Bene, noi siamo state in vacanza, ma in questo paese non ci si può mai rilassare fino in fondo, perché insomma sicuramente tutte sapete, ricordate tutte le cose che sono accadute quest'estate. Io penso di avere il microfono chiuso perché non ho un ritorno di cuffia. Io vado avanti, se ci sono problemi mi dite qualche cosa dall'altra parte, grazie, molto gentili. Dunque sono accadute che non ci hanno lasciato in pace, praticamente ne abbiamo viste e sentite delle belle. E a proposito di belle, che dire, magari noi avremmo piacere, così intanto per uno scambio di opinioni, che ci telefonassero in trasmissione. Non pretendiamo certo tutte 500, ma che dire, almeno qualcuna delle ragazze che così spontaneamente sono andate a farsi indottrinare dal colonnello. Come quale colonnello? Ma l'amico dell'ottavo nano, Silviolo, no? Che poi, come dire, noi gradiremmo molto se andasse a... No, aspetta, a chi avete capito? Se andasse a fare compagnia a quell'altro nano, dai che avete capito. Ecco, sì, insomma, bravo, è proprio quello verde. Come si chiama? Ma stiamo parlando di Rantolo. E vabbè, dai, lo sapete, noi si scherza. E siccome quando si scherza bisogna essere serie, spinte dalla nostalgia per le belle giornate passate e a sperimentare la pratica della relazione, stasera vi racconteremo come le magnifiche CLR hanno passato l'estate. Le magnifiche saremmo noi. Dunque, stasera in studio siamo Caterina, che vi sta parlando e come al solito litiga con il mixer, e con me ci sono anche Rosina e Lucilla. Come sempre potete intervenire a questa trasmissione telefonando al numero di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50, oppure potete inviare messaggi al nostro cellulare che resterà attivo per tutto il tempo della nostra trasmissione, ed ecco il numero 339 853 6270. Penso di aver parlato abbastanza, quindi se riesco a far rifunzionare tutto e mi ricordo come si fa prima delle vacanze, metto un brano di Carmen Consoli dal titolo A finestra. Aspettate un attimo che arrivo. Sembra alla finestra, è vero, gente che fu riappasciata, gente bella, l'aria allegra, mogiosa e sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata, bocca scetta, tu li ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi, Giuse, quando ti chiamavi Giuseppina, eri lecca, fabbrio, sciacca, granita. Tu una fatta usciata e ora che sei grosso imprenditore t'ha insegnata la classe in dove parlare. sogno sempre alla finestra, è vero, gente spacinata, sto a casa dei panchini della piazza, sto terzo una sigaretta, gente casa incontra e dice ciao con Nataleata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si vasa, gente casa passa in genna cigna, si sciapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa palli canna sarda, ma ci faccio aria a tavola con sata e cucumanna. Pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci pace coppola, nantronica se trase dentro l'ossa, peccatori rinunciati a ripiccati della carne, quando diavolo s'affaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario branchia detto leone, pace coppola balbette a mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Chi c'ha vedi di tagliare una vita a cui pensare, a me un poco di che fare, da venire un poco a mare con io un vecchio dito così anche mi pare di scritto, io ci dico ma scusare perché ad stare in casa da me casa panzuttare. Sembra alla finestra, è vero, aranni civiltà che sta donne turche e pre cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di pittizza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua è stato ieri, oggi forse che potessi ritornare, se trovamo semi buono di chi andare da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore e dice che le cose stanno per cangiare. Chi c'ha vedi di tagliare una vita altro a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venire a ballare state quattro salti e mi scede giusto per sbagliare, io ci dico con piacere c'è qualche danza scelta cavoli di consigliare. Allora, rieccoci qui, come ci ha anticipato Caterina poc'anzi, stasera vi parleremo delle nostre vacanze, alcune di noi CLR questa estate ad agosto si sono recate in Puglia presso la masseria Sant'Anna. Per chi non lo sapesse, ne abbiamo già parlato, ma ripetita iuvant, la masseria Sant'Anna è una struttura architettonica protetta costruita nel 1857. Vi starete chiedendo, forse siamo andati a fare una vacanza archeologica, bucolica? No, naturalmente no. Vi diamo alcuni dati. Questa splendida masseria sorge nella Murgia dei Trulli, tra alcune splendide colline della Valle d'Itria. E allora voi giustamente vi domanderete, ma siamo andati a cercare la pace e la tranquillità tra gli ulivi e i pascoli? No, però siamo andati a cercare le pecorelle belle. E infatti i pascoli presso la masseria c'erano, e c'erano pure le pecorelle. Adesso, e infatti ecco qui lo zufolo del pastore Pan che prontamente Caterina ha inserito, vi racconteremo qualche fatto che ci è occorso appunto durante questa simpatica vacanza. dovete sapere che siamo partite da diverse parti d'Italia per ricongiungerci tutte nel comune di Monopoli e partecipare appunto alla settimana di vacanza lesbica organizzata da alcune donne delle Desiderande e da alcune componenti di Arci Lesbica Mediterranea di Bari. Era prevista la presenza di una quarantina di donne residenti in masseria, più un considerevole numero di donne che si sarebbero invece aggregate la sera per la cena e per assistere agli eventi organizzati. Il periodo della vacanza andava dal 14 al 22 agosto, quindi un ferragosto fra le lesbiche, molto bello. E come nella vera commedia italiana, la partenza è stata fissata alle ore 6 del mattino e le due macchine che dovevano viaggiare insieme per sostegno reciproco naturalmente non si sono incontrate mai. Il nostro equipaggio, identificabile come il numero 1, composto da Rosina, Francesca e Lucilla, prevedeva una suddivisione equa dei ruoli. Rosina alla guida, che naturalmente avrebbe preferito non guidare, essendo lei tassinaretta e quindi svolgendo questa sua attività lavorativa al volante ogni giorno della sua vita. Il risultato è stato 7 ore incollata ai comandi di guida. Francesca alle vettovaglie. Essendo in 3, Francesca ha pensato bene di preparare panini per tutta la durata della vacanza. Per inciso, detti panini non sono comunque giunti a destinazione se non in numero di 2 esemplari superstiti, immediatamente fatti fuori da Pina e Caterina, partite da Napoli e appartenenti ad un aggiunto equipaggio, denominato numero 3, non contemplato assolutamente nel gruppo iniziale di partenza. Infine, la terza del gruppo, ultima ma non per ordine di importanza. Sì, io, proprio io, Lucilla. Lucilla, che appunto era stata assegnata all'animazione contro il sonno e la stanchezza. Senza paura di smentita possiamo affermare che Lucilla in effetti si è riposata di molto, chiudendo gli occhi alle 6:02 del mattino e riaprendoli 2 ore più tardi. Investita del suo fondamentale ruolo, ha iniziato allora ad allietarci con canti popolari maremmani e non. Una vera delizia. Ed è vero. Contemporaneamente l'altro equipaggio, il numero 2, formato da Elena, Antonella e ben 2 Moniche, non velate fortunatamente, procedeva tosto per altra via. A tutt'oggi ancora non abbiamo capito quale, ma grazie alla moderna tecnologia siamo quasi riusciti a sfiorarci, quando non sazie dei molti panini avremmo voluto rifocillarci, ormai già in terra di Puglia, riunendoci presso un noto ristorante del luogo, citato dalla famosa guida per camionisti posseduta da Monica. Probabilmente a causa della lunga digestione dei suddetti panini non siamo riusciti a trovare né l'uno né le altre, ovviamente, però confidiamo nell'anno prossimo, perché si sa che la speranza è l'ultima a morire. In compenso, ovviamente, mentre noi ci aggiravamo disperati alla ricerca di questo ristorante, le altre, affamate come lupe della steppa, si fermavano ovviamente in altro loco. Naturalmente noi non ci siamo comunque scoraggiate e appena arrivate a Monopoli abbiamo dato il colpo di grazia ai panini superstiti. Vi chiederete come mai, pur provviste di una moderna vettura e modestamente di un autista provetta, il viaggio sia durato così a lungo. È presto detto. Sosta iniziale a Caserta per recuperare il bagaglio di Elisa, che ci avrebbe raggiunto 2 giorni dopo in treno. E che è stata una formidabile coadiuvatrice del gruppo. Ovviamente. Ovviamente. E dando il meglio di sé. E vi spiegheremo naturalmente il perché. Ok. La tappa di Caserta ci ha fatto ovviamente rallentare sulla tabella di marcia, però non è stata tanto significativa. Il vero problema, oseremmo dire, sono state le guarnizioni lente di alcune delle componenti dell'equipaggio, che richiedevano frequenti soste negli autogrill. E questa è una diceria? Lo dico io che è una diceria? Lo dice lei, perché è una di quelle che hanno le guarnizioni lente. Comunque, nonostante queste determinanti tappe aggiuntive ed inderogabili, aggiungerei, l'equipaggio numero 2, partito anche lui da Roma, è comunque riuscito ad arrivare dopo di noi, cioè l'equipaggio numero 1. Non abbiamo indagato sulle motivazioni, ma ci chiediamo ancora per quale motivo le componenti dell'equipaggio numero 2 siano passate per Taranto. Forse volevano fare del turismo. Ma chissà. Ora, per la geografia, non so se la avete geografia presente. O geografia? La geografia. La geografia. La geografia. No, la geografia sappiate che Taranto si trova a sud di Bari, estrema. A sud, ecco, cioè si trova sotto, cioè, non lontano, so come dirlo in altre parole, più è lontano. Più sotto, insomma, praticamente in Africa, ecco, cioè, quindi non si sa, cioè noi venivamo dal nord, non venivamo dalla Sicilia, vabbè, non importa, dal nord venivamo, dal nord. E allora, finalmente giunte nella contrada Santa Lucia, mentre già agognavamo di prendere possesso della nostra stanza a quattro letti, siamo state risucchiate dalla ricerca quasi disperata di Pina e Caterina, equipaggio numero 3, equipaggio numero 3, che purtroppo risultavano disperse nei meandri di quella contrada, la contrada Santa Lucia. Veramente ci eravamo quasi rassegnate a contattare chi l'ha viste, e tutto ad un tratto eccole palesarsi nel loro fulgore, e col piacere della dea alla fine siamo riuscite ad approdare all'ambita masseria con molto ritardo ma con una certa soddisfazione. E loro con molta soddisfazione hanno mangiato, come vi abbiamo detto, si sono sbranate, i panini residui fatti da Francesca e agognati da loro due, veramente. Ma poi non erano panini, erano panoni. Adesso non esageriamo, non ci dipingete panoni per quello che non siamo. Vabbè, da questo momento in poi ovviamente non proseguiremo con il resoconto narrando una cronaca quotidiana, però cercheremo comunque di tirare le somme del nostro soggiorno. Vai. Stanza 4 per l'equipaggio 1, dicevamo. L'equipaggio numero 2 era invece disseminato fra camper e stanza a 6 letti. Pina e Caterina si trovavano in una magione limitrofa. Noi dell'equipaggio 1, ormai da chiamarsi della stanza 4, eravamo divise tra il letto a castello e il letto matrimoniale. Ed è qui che incomincia la vera faida. Chi dorme nel letto a castello di sopra? Ovviamente l'assente. La povera Elisa si è dovuta rassegnare ad avere assegnata questa scomoda posizione. Lucilla, molto previdente, guadagnava immediatamente il letto matrimoniale da dividere con Rosina, la quale, vedendo l'armamentario notturno di Lucilla, tappi per le orecchie e cerotto per il naso, comprendeva immediatamente di non avere scampo. Disperata, si rassegnava a non dormire per i successivi 7 giorni. Ora io vorrei aggiungere qualcosa, nel senso che ci sono stati vari concerti esterni ed interni, direi, alla masseria. Per quanto riguarda quelli interni, nella camera a quattro letti ognuna aveva uno strumento, era fornita di un bello strumento, e lo suonava proprio. Dicerie. Anche la Rosina lo suonava, lo strumento. Dicerie. Anche Francesca, comunque, care amiche, non è stata da meno. Però, non essendo altrettanto ipocrita di Lucilla, Francesca si è appalesata per quello che era, e cioè dormiva nature, senza filtro alcuno. Per cui l'ultima possibilità di riscatto notturno era rappresentata da Elisa. Che te lo dica a fa? Lasciamo perdere. Alla fine, perciò, anche Rosina, costretta dalle circostanze, si è tosto adeguata. Certo. E così la Filarmonica di Vienna ci faceva un benemerito baffo. E allora, mentre le giornate scorrevano liete, la mattina noi ci alzavamo pigramente e iniziavamo appunto la nostra giornata con una colazione ottima e abbondante che durava in media intorno alle 2 ore, sedute al fresco dei tavolini all'aperto e bivaccando più o meno ignobilmente. Del resto, le torte che preparava la cuoca Lorena dovevano essere debitamente onorate, perché veramente meritavano. Beh, certo. E così era tutte le mattine, Caterina, ammettilo. Mi sembra giusto. Tutte le mattine. Una tristezza, quei cereali a casa con latte scremato, ma che tragedia. Il giro vita. Il marmellatino senza zucchero. È verità. E comunque, ragazze, Lorena è una grande e ci ha fatto mangiare non solo bene a colazione, Non anche solo a cena. Bene a colazione, anche a cena e anche nei vari dopo cena. E infatti vi vogliamo dire che sicuramente se ci vedeste in questo momento non ci riconoscereste, o meglio, ci riconoscereste a noi, ma non ai 10 kg che ci siamo trascinati dietro dalla masseria. Rotola. E allora dicevamo che le giornate trascorrevano pigre tra piscina, mare, passeggiate ed escursioni in attesa della sera. La sera era l'evento culmine, perché appunto c'era la cena preparata da Lorena e con le sue prelibatezze, e per le quali appunto accorrevano donne da ogni dove. È chiaro che insieme a Lorena c'era anche una staff di cucina di grande eccellenza che collaborava con lei. Magnifiche. E dopo la cena, via i giochi con la staff dell'intrattenimento, alle danze con le DJ, ben due DJ, ai concerti, agli spettacoli teatrali, e tirando così via fino a mattina. Mattina. Mattina. Grande mattina, insomma, voglio dire, c'erano un paio dell'equipaggio numero uno che non è che facevano mattina, cioè tutte le mattine l'alba. Tu non hai inquadrato bene il problema. Il fatto è che noi siamo tutte diverse ed esplichiamo le nostre differenze. Ovviamente c'era chi faceva le ore piccole, e infatti oserei dire che Lucilla e Francesca, che sono rappresentanti delle lesbiche anziane, si ritiravano intorno alle 3. Pina e Caterina ancora prima, per motivi coperti da riserbo, non abbiamo indagato, forse in un futuro loro ci vorranno spiegare come mai si assentavano così improvvisamente a metà della serata. E c'era chi si ostinava a vedere l'alba cercando appunto di contare le famose pecorelle di qui sopra, e cioè Rosina ed Elisa. Posso dire la colonna sonora? Pecorelle belle, anime di Dio, la parola del Signore ve la spiego io. Basta, finito, anche perché siamo stonate. No. Approfittiamo però per salutare Suor Melodia, che ci ha allietato una delle serate della masseria, e insomma, la salutiamo con molto affetto. Michela Cappucci. Dunque, allora, chi era che contava le pecore? L'abbiamo detto, Rosina ed Elisa. Perché? Perché appunto erano le rappresentanti delle lesbiche giovani. Giovanili. Sono le braciolette sul viale del tramonto. Basta, smettetela, siete terrificanti. Allora, e comunque noi dovevamo tenere alto il nome del gruppo. Se ci avete una scusa migliore, trovatela voi, se vi riesce, perché questa è quella che avete trovato, diciamo. È l'unica che vi è venuta a mente. Esattamente. Ad ogni modo, se l'onore del gruppo è stato tenuto alto, questo non c'è dato saperlo, però il gomito sicuramente sì, grazie ai numerosi mojito preparati dal bar, che sono stati molto apprezzati. Devo dire che io anche molto bevuti. Molto bevuti. Devo dire che io ho bevuto di più in quella settimana di quanto solitamente non faccia durante un anno intero, per cui era molto pericoloso accendersi una sigaretta vicino a me. Va bene, insomma, siamo arrivati più o meno alla metà della settimana ed era appunto mercoledì. E come di consueto, il mercoledì non si sa bene per quale ragione fisica astrale, o chimica o astrale, la masseria esplode per energia, vitalità. A quel punto non si capiva mai chi stava con chi, e soprattutto perché, quando, come, e oserei dire pure dove, perché insomma non ti potevi girare da nessuna parte, che trovavi dei corpi avviluppati in maniera vergognosa, beate loro. Comunque, siccome siamo delle signore, non diremo parola sui particolari e vi lasceremo lavorare di fantasia, direi, anche di fantasia. Perché se poi volete ci telefonate eccetera, ci mandate degli sms, noi vi rispondiamo e vi diciamo anche chi, cosa e anche dove, perché l'onesta morbosità del pubblico va immediatamente soddisfatta. Comunque, per il momento lo lasciamo alla vostra immaginazione fervida, oppure no. Ad ogni modo, ci teniamo a dire che chi di noi è partita singola, tale è tornata. Chi è partita in coppia, fortunatamente, è rientrata con la propria compagna. E quindi, e qui insomma spezziamo una lancia in nostro favore, si evince che alcune di noi sono ancora sul mercato, per cui se volete telefonare sappiate che allora potete farlo. Il cellulare è 339 853 6270. Puoi anche dare il mio dopo se vuoi. Allora, un altro particolare che vogliamo ricordare è che ai giochi di squadra, ai quali abbiamo partecipato suddividendoci in gruppo, nonostante le numerose cadute e ferite sul campo, le romane, come al solito, si sono distinte vincendo l'ambito premio in palio. consistente in una tazzina da caffè. Adesso, per una che non beve caffè come me, devo dire che è stato veramente un premio molto utile. Ma tu ti ci puoi mettere l'orzino. L'orzino. Fai l'orzino la mattina e ti prendi l'orzino. Io ce l'ho lì in tonza, la guardo. Vabbè, e sogno. Certo, anche io. È lì, anche perché devo dire una cosa: che nella tazzina da caffè non ci sta la fetta di torta di Lorena. Perché infatti, la tazzina da caffè è piccola. È simbolica. E dai, quindi è simbolica, su. sta lì nel reparto materiali delle cose che non siete altro. Nel reparto delle cose che non si toccano. Questa è un feticcio della masseria che noi manteniamo e custodiamo gelosamente, ecco, fino all'anno prossimo. Esattamente, anzi sapete cosa facciamo? Adesso a Natale riuniamo tutte quante le tazzine e ci facciamo un caffè tutte quante insieme. Durante la lesbotombola, eh? Durante la lesbotombola, per la quale vi aspettiamo, ci faremo sto caffè. Assolutamente sì. E comunque anche in questa occasione, che oserei definire di cazzeggio generale, insomma, così in gergo tecnico, Lucilla, amica mia, ha voluto palesarsi per quella che è, e cioè la culturata del gruppo. Naturalmente, of course. Of course. Naturally. De corsa. Quindi su suo ordine, il gruppo Vacanze Romane si è recato per ben due volte, e dico due, a Bari per visitare il museo diocesano che custodisce ben tre exultet. E come si dice a Bari? Mado! Maro, come si dice a Bari? Mado! Mado! E voi direte, ma che è questo exultet? E noi diciamo, è una crisi mistica, è una crisi mistica. Ad ogni modo, questa è la situazione che è successa. Rosina, da quella zotica che è, ha scalciato fino ad ottenere la dispensa. Avendo vissuto tutta la sua vita senza avere notizia alcuna di questa fantomatica pergamena, perfida aggiungerei, ha deciso di rimanere nella sua consapevole ignoranza e ha preferito la meschina spiaggiarsi come un capodoglio nella piscina della masseria. Ora voglio dire, la dispensa che ha chiesto è stata quella lucilliana e io gliel'ho concessa, anche perché era veramente inguardabile se dormiva 2 ore per notte, lo capite da voi, trascinasse il capodoglio per Bari, era un casino, ecco, quindi l'ho lasciata. Sono notizie false e tendenziose. Rosina era nel suo massimo fulgore, devo dire, bella, abbronzata. Erano le occhiaie, magra, che facevano perché il nero spina, perché il nero spina. Comunque, allo stesso tempo, Pina e Caterina, anche loro, la mattina dell'evento risultavano essere stranamente irreperibili. Molto. Si ritiravano presto, non andavano a fare le visite culturali. Io vorrei sapere che cosa hanno fatto per 7 giorni. Non solo, ma non rispondevano, cioè i cellulari erano irraggiungibili, perennemente spenti. Io non lo so, in ogni modo, vabbè. Ma c'è una legge sulla privacy. Alla prossima masseria le facciamo venire nella stanza 6 con noi, perché così no, le possiamo controllare. Il letto a castello, no. Il letto a castello, come il dibattito, il letto a castello, no. No, il letto a castello, no. E va bene. Allora, naturalmente ci sono state anche, non vorremmo far credere che siamo soltanto delle ragazze così spiritose e non abbastanza profonde, per cui vi diciamo anche che ci sono state delle serate culturali, certo, in cui ovviamente le innate capacità artistiche delle partecipanti si sono rivelate in tutto il loro splendore, e quindi sono stati rimembrati, rivisti e nominati una serie di elementi fondamentali nelle nostre vite, e cioè e nella nostra cultura, e nella nostra direi. Cultura naturalmente, assolutamente sì, a partire dalle liste, certo, e quindi abbiamo rinominato e rivisto. Ora immaginate tutto questo nel, come dire, dopo essere state ottenebrate dai fumi dell'alcol. Non è stata una cosa dopo la cena, dopo la cena meravigliosa dello staff della cucina, che bevevamo vino a tavola, poi incominciavamo a prendere le varie cose al bar, rimanendo sedute prima per che gustare. Si aprisse il dancing, come dire, stavamo un po' la balera il dancing, come la balera con le balene. E quindi voi capite che abbiamo tirato fuori tutta la nostra cultura, perciò abbiamo parlato di 7 nani illuminati tutti, e poi ne abbiamo aggiunti altri 7 almeno. L'avete sentito prima, Rantolo, per capirci, ecco. Certo, Rantolo, Rubolo, Mocciolo, Roncolo, Mestolo, Stronzolo, e vari. I 7 colli di Roma, qui devo dire che non è stato facilissimo, no, perché ce n'era sempre qualcuno che sfuggiva, certo. Alla fine li abbiamo recuperati tutti, siamo stati bravissimi. anche i sette re di Roma, già che c'eravamo, certo. Era il tavolo delle romane, al quale tavolo comunque tutte volevano partecipare. Bisogna, era molto ambito, volevano venire tutte le sere. È una verità. Purtroppo non c'era spazio, che dobbiamo fare? Il tavolo era stretto, via. E poi i sette vizi capitali, questi li abbiamo riconosciuti quasi immediatamente. Quelli li sapevamo, eh? E le sette virtù, quelle meno, quelle è stato difficile. Questo è stato molto difficile, infatti un'ampia ricerca quella. Pensiamo di aggiornarvi in un altro momento, perché in questo preciso istante non ve le sapremmo ripetere. Ci sfuggivano subito. Ci sfuggivano subito le sette virtù, purtroppo. Non abbiamo invece elencato le sette meraviglie del mondo, che saremmo noi nel CLR. Noi siamo sette, siamo nel CLR. Sette. Siamo giusto sette. Meravigliose. E qui direi, come citando Lucilla, del resto la modestia è il nostro forte, perché le belle di Campiglia tutte le vogliono e nessuno le piglia. È così. Oppure c'era anche la versione, la figlia della sora Camilla, tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Va bene, va bene. Questo è più romano. Vabbè, noi comunque nel frattempo ci siamo prese questa bella masseria trascorrendo una vacanza memorabile. E vabbè. Fin qui naturalmente abbiamo scherzato, così anche per farci due risate, due chiacchiere, no, fra anche noi e per voi. Ricordare l'atmosfera che abbiamo vissuto per ben sette giorni, che è stata molto bella. Assolutamente. E a questo punto veramente vorremmo ringraziare tutte le donne della masseria che hanno reso possibile questa esperienza, che lo ricordiamo è nata da una unione fra alcune donne delle Desiderande di Bari e alcune invece di Arcilesbica Mediterranea, sempre di Bari. E, è inutile sprecare altre parole, perché tanto comunque non riusciremmo a descrivere, a raccontare la magia di questa masseria e delle donne che ci lavorano e delle donne che partecipano a questa vacanza, perché questa è una cosa che diciamo sempre: quando le donne si incontrano c'è un'alchimia, un'energia che viene fuori, che è molto particolare e ci permette veramente di vivere di rendita per molto tempo in questo mondo dove viviamo e che purtroppo però non ci piace, così come pensiamo non piaccia molto neanche a voi. A questo punto io darei qualche piccola notizia rispetto alla qualche informazione rispetto alla masseria, ricordandovi che è aperta tutto l'anno, che funziona come un bed and breakfast e soprattutto è una impresa di donne, quindi è organizzata, e ce lo disse anche Pina qualche tempo fa in una trasmissione, Pina della masseria, che abbiamo appunto intervistato prima di partire prima della pausa estiva, e è una impresa che lavora con le altre donne, quindi se la masseria ha bisogno, non so, me lo invento, di comprare l'olio, va a comprarlo in un'impresa di donne, se deve prendere il pane lo prende, cioè, da imprese di donne, eccetera, quindi c'è, esatto, una rete alla quale fanno riferimento reciprocamente, e la masseria Sant'Anna è un'impresa femminile, un'impresa di donne. Quindi va sostenuta, funziona come bed and breakfast, chiude un paio di mesi l'anno, proprio mesi invernali dove c'è meno affluenza. E Rosina, vuoi leggere il sito dove prendere informazioni? Sì, vi leggo il sito per avere le informazioni, che è www.masseriasant'anna.it, masseria Sant'Anna tutto attaccato, e insomma noi ci saremmo già prenotate per la settimana lesbica dell'estate prossima, vi invitiamo a fare altrettanto ove possibile e ove vogliate, insomma. E a questo punto direi che possiamo considerare chiusa questa breve aggressione, questo cazzeggio, sì, post estivo. E Caterina, mando una canzone, sì, ha scelto per noi una canzone, io mi dissocio, non la conosco ma mi dissocio uguale. Siamo partite, ok, vado. Gioco che si chiama dato in mano a caso. Dove esiste ancora amore? Dove esiste ancora luce? Dove esiste ancora pace? Dove tutto ancora brilla? E da una cura al disco party, ognuno qui grida forte il proprio nome. Della libertà. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Dove esiste solo amore? Dove si fa l'amore anche in tre? Dove ci si ama anche in tre? Dove si ama anche in più di tre? Parti dove il frutto del peccato non è stato mai assaggiato, nessuna inibizione, né senso del pudore, neanche pregiudizi e nessuna discussione, no, non esiste frustrazione, nessuno è disturbato, neanche giudicato, niente è mai sbagliato e nessuno è mai ingannato, chiunque gode il vanto di poter essere ciò che è in quel giardino che ognuno ha dentro di sé, ed è qui il party. Dove esiste solo amore, dove esiste solo luce, dove esiste solo pace, dove tutto sempre brilla. Dove esiste ancora amore, dove esiste ancora luce, dove esiste ancora. Ed eccoci qua ancora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, che va in onda a partire dalle ore 17 tutti i martedì su Radio Onda Rossa 87 900 MHz. Avete la possibilità di ascoltarci collegandovi al nostro sito, che è www.clrbp.it, e cliccando sull'icona in diretta, oppure andando sul sito della radio, che è www.ondarossa.info. Ci sono diversi modi per entrare in contatto con noi. Potete telefonare al numero di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50, fino alla fine della nostra trasmissione. Oppure potete mandarci un SMS al nostro cellulare, ed ecco il numero 339 853 6270. Ve lo ripetiamo in modo che possiate memorizzarlo, visto che finora non è arrivato neanche uno. Fateci sapere che ci siete. Il numero è 339 853 6270. Tenete conto che il nostro cellulare rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione, quindi fino alle 22. Per continuare ad elencare i modi con i quali entrare in contatto con noi del CLR, vi ricordiamo che potete scriverci una mail al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it, oppure telefonarci il giovedì sera al centro femminista separatista presso la Casa Internazionale delle Donne, componendo questo numero 06 6864 201. E per coloro che non possiedono un computer, possono stare tranquille. Gradiamo tantissimo anche le lettere cartacee, che potete inviare a CLR presso Centro Femminista Separatista, Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B, 00165 Roma. Come sempre, il mezzo più immediato che avete per farci sentire che ci siete è quello dei trillini, che gradiamo sempre tantissimo. Basta fare il numero di Radio Onda Rossa, ripeto, lo 06 49 17 50, lasciar squillare una sola volta e poi riagganciare. Non costa nulla, ma a noi regala sicuramente la vostra compagnia. Adesso, prima di proseguire con la trasmissione, mandiamo un altro brano. Si tratta di Garbage con il brano Androgeni. See the point of going on. Nothing in life is set in stone. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree go pick a plum. Why can't we all just get along? There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need. Dicono dalla regia di ringraziare e io i lo trillini. Faccio. Grazie per i trillini, vuol dire che siete in ascolto e quindi noi siamo contente. Allora, adesso chi vi parla è Lucilla, l'avrete capito. Quella che è russa. Quella che è no, russa. Non è vero, è una bugia. È quella che è stata definita lesbica anziana, ma del resto è la verità. Allora, intanto io vi aggiorno, visto che la parte culturale spetta a me, su praticamente le iniziative che incominciano a tenersi. Allora, intanto, già l'avranno detto le altre compagne prima, e avete sentito fra l'altro i pezzi della donna che verrà a cantare, Madu, scusate, ho sbagliato. Esatto. Ma e questo sarà venerdì 24 dalle 20 in poi. Straordinariamente, per il 24 facciamo un aperitivo prima, ma sapete che il Kesbilè è uno spazio che, di socialità per donne e per donne lesbiche, che si apre dalle 20, dalle 21 normalmente, e dove si sta in compagnia e che riempiamo insieme. Questa volta però straordinariamente al Quesbilè ci sarà in via San Francesco di Sales, presso diciamo la zona dove è il centro femminista separatista. Il 24 si aprirà alle 20 e ascolteremo questa splendida cantante che avete già sentito per radio. Ok, e questa è una. Poi ci sarà, sapete che abbiamo fatto il Saffo Garden, che è andato molto bene, le donne almeno. E ringraziamo tutte quelle che ringraziamo tutte quelle che hanno partecipato e diamo appuntamento alle prossime. Ringraziamo nostre. Anche quelle che non hanno partecipato, così che siamo potute tornare a casa solo alle 4 del mattino. Esatto, però è andata molto bene, ci siamo divertite. E l'altra cosa che vi volevamo dire è che il 2 ottobre 2010 alla Casa Internazionale delle Donne si terrà la Notte Bianca. Ora voi sapete, in controtendenza, il comune con la nuova giunta la Notte Bianca non la vuol fare, non la fa. È troppo chiara. È troppo chiara, sì, la Notte Bianca è troppo chiara. Perché il nero sfina, mi ha chiesto. Sì, nel comune è così. E invece alla Casa Internazionale delle Donne il 2 ottobre partirà la Notte Bianca con dalle 20 fino alle 3 di notte, con vari eventi, giochi, proiezioni di film, la ristorazione, il concerto con delle bande varie. Comunque per avere tutti i particolari si possono collegare al sito della Casa Internazionale, c'è sicuramente tutto il programma nel dettaglio. Sì, e ci saranno anche laboratori eccetera eccetera, e per vedere che cosa c'è potete andare sul sito www.casainternazionaledellodonne.org e quindi lì divertirvi. L'altra cosa che vogliamo fare è leggervi un comunicato che ha mandato l'Udi, che aderisce a una petizione che è stata lanciata dalla Casa Internazionale delle Donne. Perché che cosa sta facendo la Regione Lazio? Anche la Regione sapete che, certo, è cambiata negli ultimi tempi, e vogliono mettere le mani sui consultori. Ora, i consultori sapete che sono delle strutture che stanno all'interno del tessuto cittadino, un po' in tutti i quartieri. Ma in questo momento c'è una proposta di legge di riordino dei consultori stessi, che parla dei consultori come luoghi per il consolidamento della famiglia e dei valori etici di cui essa è portatrice. E questa è la premessa di questa proposta di legge. Per chi ha redatto, dicono le compagne dell'Udi, per chi ha redatto questa proposta, la donna non è un soggetto, non è una cittadina, ma una componente di una struttura a conduzione patriarcale, la famiglia, e voi sapete cosa pensiamo noi della famiglia, i cui interessi vengono prima di tutto, cioè gli interessi della famiglia, e non dei soggetti e delle soggette che all'interno di questa struttura stanno. Il concepito stesso, badate, non il nato, il concepito stesso viene difeso in quanto già componente della famiglia. Poi quando nasce, so cavoli di chi ce li ha, i figli. Viene da pensare che neanche l'uomo della strada si ritroverebbe nel quadretto di famiglia per come viene rappresentata in questa proposta di legge. Il senso comune degli uomini e delle donne della società civile è sicuramente più avanti di certi governanti e di certi amministratori. È ora di contrastare una restaurazione che prima ancora che politica è e vuole essere culturale, consapevoli che la posta in gioco non è la vita umana come principio teorico, ma la nostra vita di donne, molto concreta, e la nostra libertà. Tutta la cosiddetta cultura pro-life, cioè per la vita, trasuda inviti alle donne a tornare nei ruoli di donne accoglienti, testimoni di una cultura della vita e di una società che deve essere sempre, attraverso le donne, aperta ed accogliente. Cioè, chi accoglie solo le donne, il resto non si sa. Persino la contraccezione è ormai vista come ostile alla vita, e questo messaggio al negativo è ben più pericoloso e violento della pur insopportabile melassa mediatica attorno alle famiglie numerose, alle mamme ad oltranza, a quelle eroiche, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che a nessuno di quanti si ergono a paladini delle donne interessa davvero la nostra salute o la difesa della maternità o la reale prevenzione dell'aborto. altrimenti non sarebbero gli stessi che boicottano tutta l'informazione e la cultura contraccettiva, che non stanziano risorse per sostenere le donne che diventano madri, che lasciano tre quarti d'Italia senza consultori. Noi aggiungiamo che non danno informazioni alle donne che non sono eterosessuali per la loro salute, e perché ovunque tu vada, da qualsiasi ginecologa o ginecologo, la presunzione è che tu sia eterosessuale e faccia e abbia quindi una eterosessualità orientata solo in un senso. Quindi gli stessi che da anni impegnano tutte le loro energie nell'eroica battaglia contro l'autodeterminazione delle donne. Per costoro il paese reale è molto lontano, immaginatevi le donne. Se vuoi firmare anche tu, vai sul sito, ancora una volta, il sito della Casa Internazionale delle Donne, www.casainternazionaledellodonne.org, e questo comunicato è firmato Roma 21 settembre 2010 dall'UDI Unione Donne in Italia e dalla loro sede nazionale, l'archivio centrale, che è www.udinazionale.org. Allora vi invitiamo ad andare sul sito e a firmare questo appello, e niente, questo è per ora la nostra prima trasmissione. Non so se c'è un messaggino. Sì, prima di chiudere, casomai. Sì, veramente mi corre l'obbligo, mi dovete perdonare, perché capisco che insomma, l'argomento che hai appena trattato è molto importante, però questo è altrettanto importante, quindi mi corre l'obbligo di comunicare che c'è stata richiesta una precisazione da parte di Elisa, che appunto ci invita a precisare che il suo russamento è stato un episodio eccezionale dettato dalla stanchezza. Non ci credete, perché non è vero, però non lei insomma ci ha detto di precisare, noi precisiamo. Cioè, Elisa, c'hai la faccia non so come, però su questo stendiamo un velo pietoso. Però ti ha spiegato l'exultet e mi sembra che tu insomma possa anche accettare da parte Vabbè, sua. Io accetto, io non ho problema. Accetto con l'accetta. Allora, vi salutiamo per sì. ora. Vi aspettiamo venerdì 24 per il Kesbilè. Riempiamo insieme uno spazio di socialità, è un invito, e attraversiamoci in tutti i nostri modi di essere, da più parti. Vabbè, questa è la solita, è Rosina, è la taverna meno 5. Io cerco di essere aulica, ma che volete, purtroppo sono materiale. Esatto, è una materialuna. Però è simpatica, ragazze, ve lo posso garantire. Grazie, mi sta facendo. Ve la vendo. Così me la levate di torno. Una sale, stava la ruffiana. Va bene. Allora, sentite, siccome noi siamo andate oltre il nostro tempo di ben 7 minuti, io mando subito la sigla e poi però ci sentiamo dopo un pezzettino di Fiorella Mannoia, perché io me l'ero preparata e siccome mi piace molto. Una notizia la dobbiamo dare. La prossima settimana non ci saremo noi. No, vanno le connettive. Le connettive, bene, noi sì. ci sentiamo tra 15 giorni con una nuovissima trasmissione. Bene, allora buona serata a tutte e ci vediamo venerdì al Kesbilè. E ci sentiamo fra 2 settimane qui. Baci e abbracci. Ciao. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that. Something's got a hold on me, yeah. Oh, I feel it. Se lei cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se lei è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.